Ciao e benvenuti in Invenzione Scoperta, lo spettacolo che la NGGF ha creato con un ospite, Giacomo. Nell'episodio di oggi discuteremo della scoperta di Tutmose II e la marmotta ghiacciata di 6.000 anni fa. E offriremo agli ascoltatori una sorpresa speciale alla fine. Assicuratevi di ascoltare fino in fondo per i dettagli. Ciao e benvenuti a Invenzioni Scoperte. Oggi discuteremo della scoperta di Tutmose II. La tomba è stata trovata da un'archeologa. In realtà era stata scoperta da tempo, ma si è pensato fosse di una faraonessa. L'archeologa ha però trovato il nome scritto in geroglifico e ha capito che non si trattava di una donna, ma di un maschio, cioè Tutmose II. Adesso parleremo della marmotta ghiacciata di 6.000 anni fa, su come è stata trovata. Ma per farlo abbiamo un ospite, Giacomo Banzi, il trovatore della marmotta, che ora gli faremo qualche domanda su come l'ha trovata e cose così. Dove ha trovato la marmotta? Sulle Alpi per un'escursione. Come si è sentito appena l'ha trovata? Mi sono sentito appassionato e emozionato. Cosa ha fatto dopo che l'ha trovata? Ho chiamato le autorità del museo e gli scienziati l'hanno studiata.